Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. L'Europa chiude a nord con i suoi muri, che sono i muri del regolamento di Dublino, e noi diventiamo una pentola a pressione che ormai sta per esplodere. Siamo ormai una pentola a pressione che sta per esplodere per l'emergenza migranti, cari ascoltatrici, cari ascoltatori. Questo lo sostiene Di Maio, vicepresidente della Camera e del Movimento 5 Stelle. Sapete che oggi è la Ventimiglia, continua fortissimo questo dibattito, scontro politico sia tra l'Italia e l'Unione Europea, ormai va avanti da tempo, ma anche all'interno della politica italiana, no? Su di chi è la responsabilità di questo flusso inarrestabile di migranti e chi lo potrebbe gestire, chi ha già la soluzione in tasca e chi no. Insomma, e avevamo detto più volte che sarà protagonista questo argomento della campagna elettorale per le politiche 2018. Di questo ci occuperemo questa sera, ma di molti altri argomenti. Vi ricordo che l'ultima puntata della stagione di Effetto Notte questa, quindi rimanete in compagnia sino alle 22. Parleremo anche del fatto che purtroppo continua la strage delle donne, non c'è nulla che riesca a fermare questa mattanza. 4 nelle ultime 24 ore sono state uccise per mano degli ex compagni. E poi tre emergenze con il femminicidio, anche gli incendi che continuano a bruciare il sud Italia, oltre 1200 interventi ci sono stati solo oggi, pensate, e poi l'emergenza migranti, per l'appunto, che era quella su cui vi dicevo prima c'è questo dibattito così acceso. 349-238-6666 il numero per WhatsApp ed SMS per i vostri commenti e le vostre opinioni, che potete tranquillamente scrivere anche sulla pagina Facebook di Effetto Notte, che è lì per voi giorno e notte. Quindi tanti gli argomenti, molti saranno gli ospiti. Direi di iniziare senz'altro allora con il riassunto della giornata. Egitto, attacco sul Mar Rosso, 2 turiste tedesche uccise, 4 ferite, il killer è stato arrestato. Francia, inizia la cerimonia per ricordare le vittime di un anno fa, stamattina invece le celebrazioni a Parigi del 14 luglio con Trump. Debito pubblico è ancora record, dicono i dati di Banca Italia, il ministro Padoan rassicura, la crescita economica è superiore al previsto e grazie a questo il debito scenderà. La strage delle donne non si ferma, nelle ultime 24 ore 4 donne uccise, una in fin di vita per mano degli ex compagni. Migranti, sbarcano altri 5.000 sulle nostre coste, l'Italia vuol cambiare la missione Sofia, la missione militare europea al largo della Libia. Incendi, ancora fiamme devastano l'Italia, oltre 1.000 gli interventi solo oggi, la Sicilia la regione più colpita, in Sardegna 1.000 evacuati in Gallura. Arte, falsi Modigliani in mostra a Genova, sospesa l'esposizione, 3 indagati e 21 opere sequestrate, il curatore dice io sono la parte lesa. Sport, per il calcio, Bonucci a casa Milan, tifosi in delirio, ha firmato fino al 2022 e nel tennis Roger Federer va in finale a Wimbledon per l'11ª volta nella sua carriera. Partiamo quindi da quello che è successo oggi in Egitto. 2 turiste tedesche sono state uccise, altre 4 donne ferite. Questo è il primo bilancio di un attacco a colpi di coltello avvenuto a Hurghada, località balneare sul Mar Rosso. Ci sono state voci contrastanti in giornata sulla nazionalità delle vittime, si diceva che erano ucraine, poi tedesche. Sconosciuto per ora il motivo dell'attacco, ma non si esclude la pista terroristica. Le donne sono state ricoverate in ospedale, mentre l'aggressore è stato arrestato e interrogato. Dai primi risultati dell'indagine sembra che l'uomo si sia infiltrato nell'hotel, arrivando a nuoto nella spiaggia privata dell'albergo, passando per una spiaggia pubblica vicino. L'economia italiana, con la Banca d'Italia che rivede al rialzo le stime per la crescita del PIL, del prodotto interno lordo, nel 2017, fissandola più 1,4% contro lo 0,9% di gennaio, già in parte corretto con il più 1,3% dopo la revisione del dato sul primo trimestre da parte dell'Istat. Per Banca Italia la spinta arriva soprattutto dalla domanda interna, con un'espansione dei consumi e degli investimenti a ritmi relativamente sostenuti, ed è ancora record però per il debito pubblico a 2.278 miliardi. Ma il ministro Padoan, ministro dell'Economia, rassicura. Sentiamo cosa ha detto il TG1. Il debito rispetto al PIL si è stabilizzato e comincerà a scendere in modo significativo proprio grazie alla crescita superiore al previsto. E ora in Francia inizia oggi la cerimonia per ricordare le vittime di un anno fa e questa mattina invece le celebrazioni a Parigi del 14 luglio insieme a Trump. Un anno dopo, la minaccia terrorista in Francia è ancora ben presente. Il piano Vigipirate, nato per fronteggiarla, è tuttora in vigore. testimonianza macabra di un triennio di terrore che ha raggiunto l'apice con le stragi di Charlie Hebdo, il Bataclan e Nizza, senza dimenticare gli innumerevoli incidenti minori che hanno costellato gli ultimi mesi, uno su tutti l'assassinio di un poliziotto sugli Champs-Élysées alla vigilia delle presidenziali. Non avere sofferto quest'anno un attacco di ampie proporzioni non permette ovviamente a Parigi di sentirsi al sicuro, non gli concede questo lusso nonostante l'arretramento territoriale dell'ISIS in Medio Oriente. Gli attacchi sul suolo britannico di fine maggio sono un avvertimento della necessità di tenere alta la guardia. Quello che è cambiato negli ultimi due mesi è però il clima politico oltralpe. All'Eliseo è arrivato un presidente giovane, ambizioso, riformatore che proietta all'esterno un'immagine dinamica del paese. Un presidente che ha annunciato prossimamente la fine dello stato d'emergenza. La sua elezione ha rappresentato una catarsi, più obbligata che convinta, almeno nelle prime fasi, di un popolo fiaccato da cinque anni di crisi e di paura. La sfida per Macron sarà ora quella di rianimare non solo la Francia, ma anche l'Europa. Renderla più sicura è una delle priorità assolute, anche con una gestione integrata delle frontiere. E qui ci aspettiamo qualcosa di più, Monsieur le Président. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E dalla Francia in Medio Oriente, con un attentato a Gerusalemme oggi, dove l'esercito israeliano ha ucciso tre uomini armati che hanno aperto il fuoco nella spianata delle moschee. Uccisi due agenti, un terzo è stato ferito. Sentiamo il commento di Ugo Tramballi. Anche oggi, in un Medio Oriente pieno di guerre civili e lotte al terrore, la spianata del Tempio di Gerusalemme resta uno dei luoghi più sensibili della regione. Nel 2000 la seconda intifada scoppiò portandosi dietro le speranze di pace quando Ariel Sharon decise di fare una passeggiata provocatoria fra le moschee sulla spianata. È forse per questo che gli assalitori palestinesi hanno scelto quel luogo per compiere la loro azione contro le guardie di frontiera israeliane. È stata una missione suicida, ma ha costretto le autorità di Israele a impedire per sicurezza la preghiera del venerdì islamico. Era dal 1990 che non accadeva in modo così completo. Motivate o meno, decisioni che riguardano la libertà di culto a Gerusalemme sollevano sempre la forte opposizione di chi le subisce. La parte araba della città, la Palestina e il Medio Oriente forse non si solleveranno per questo atto di sangue. Il modo migliore per evitare il pericolo sarebbe riprendere il negoziato fra israeliani e palestinesi, ma il dialogo oggi sembra la cosa più difficile da rimettere in moto e le provocazioni la cosa più facile. Questo era il commento di Ugo Tramballi. Adesso torniamo invece sulle notizie italiane con la strage delle donne che non si ferma. In Italia pensate a un femminicidio ogni tre giorni, ma ormai lo si dice da anni e i dati delle ultime ore sono veramente sconcertanti. 4 donne uccise, una quinta in fin di vita in meno di 48 ore, tutte vittime della violenza di mariti, fidanzati o ex. A Montepulciano, provincia di Siena, un operaio di 56 anni ha ucciso l'ex moglie a coltellate alla vigilia dell'udienza per la separazione. La donna, 42 anni romena, è stata aggredita nell'abitazione delle due anziane che accudiva. A Roma, un 79enne si è tolto la vita lanciandosi dal quinto piano dopo aver ucciso la moglie di 81 anni soffocandola con una busta di plastica. A Cagliari, un giovane di 25 anni, Riccardo Madau, ha picchiato a sangue la fidanzata e, credendola morta, si è suicidato gettandosi da un cavalcavia. La ragazza, Manuela Picci, 26 anni, è ricoverata in ospedale in coma farmacologico. Qualche ora prima, a Dragoni, provincia di Caserta, Maria Tino, 49 anni, è stata freddata con tre colpi di pistola per strada. A sparare il compagno 61enne Massimo Bianchi, che la donna aveva denunciato da tempo. E a Bari, Donata De Bello, 48 anni, è stata ammazzata a coltellate dal compagno, il 32enne Marco Basile. Le urla della donna durante i litigi, dicono i vicini di casa, erano all'ordine del giorno. Maria Luisa Pezzale, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Poi torneremo a parlarne. Adesso occupiamoci di immigrazione. Altri 5.000 migranti sono sbarcati oggi nei porti italiani in un solo giorno, mentre il governo è impegnato nella correzione della missione del mandato Sofia o Sofia, poi chiederemo direttamente come si pronuncia, ma insomma è la missione militare europea al largo della Libia e la redazione del codice anche per le ONG in attesa del Consiglio dei Ministri degli Esteri dei 28 che ci sarà lunedì. Intanto è polemica per l'ipotesi di fare del porto di Civitavecchia un hotspot, cioè un primo centro di accoglienza. Il porto non è pronto, ha tuonato il sindaco del Movimento 5 Stelle Antonio Cozzolino, però pare che ormai l'ipotesi sia superata. Un'ultima notizia che è arrivata in serata. Ne parleremo dopo, come ci occuperemo anche dell'emergenza incendi, di cui parliamo anche adesso. Nuova giornata di incendi, 520 gli interventi da parte delle squadre dei vigili del fuoco in varie zone della penisola, ma nell'insieme rispetto ai giorni scorsi la situazione sembra migliorare, complice anche l'abbassamento delle temperature. Paura sciacca in provincia di Agrigento, il sindaco Francesca Valente. In questo momento la situazione è sotto controllo, sta tornando alla normalità. Però sono state ore di grande paura. E ancora un grosso incendio è divampato nella pineta di Castellaneta Marina in provincia di Taranto, a ridosso del centro residenziale Città del Catalano. Ancora incendi nel comprensorio turistico di Taormina, questa volta numerosi roghi si sono sviluppati in pieno centro a Giardini Naxos. Abitazioni evacuate anche a Gioia Tauro in Calabria per l'incendio di una discarica. In Sardegna in particolare l'incendio alle porte di Cagliari, alimentato dal forte vento di Maestrale, sta creando non pochi problemi. Alcune abitazioni sono state fatte evacuare e le statali 554 e 131 sono state chiuse al traffico. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E adesso sindacale, notizia dal mondo sindacale. Francesca Re Davide è stata proclamata nuovo segretario generale della FIOM. A eleggerla, prima donna in questo ruolo, è stata l'Assemblea Generale dei Metalmeccanici della CGIL, su proposta del segretario uscente Maurizio Landini, che entra nella segreteria della CGIL. E poi ancora restiamo in Italia con la cronaca sul processo per il delitto di Yara Gambirasio. C'è stata oggi l'ultima udienza, ultimi botte e risposta nel merito tra accusa e parte civile da un lato e difesa dall'altro, in particolare sulla famosa prova del DNA, ma anche accuse incrociate sul tenore e sulla qualità degli interventi in aula nell'ultima udienza di discussione di questo processo di secondo grado a Brescia per l'omicidio di Yara Gambirasio. Poi lunedì mattina, lunedì prossimo, l'imputato Massimo Bossetti prenderà la parola per difendersi con dichiarazioni spontanee, cercare di evitare la conferma dell'ergastolo, e lunedì poi in giornata dovrebbe arrivare la sentenza d'appello. Oggi, a proposito invece del crollo del palazzo, della palazzina Torre Annunziata vicino Napoli, ci sono stati i funerali delle 8 vittime, folla alla cerimonia funebre e poi è stato proclamato il lutto cittadino. Per quanto riguarda lo sport, due notizie, una relativa al tennis. Roger Federer va in finale a Wimbledon per l'undicesima volta nella sua carriera. Il fuoriclasse svizzero ha battuto in semifinale il ceco Tomas Berdych in 3-7, 7-6, 7-6, 6-4. Domenica incontrerà il serbo Cilic. E poi festa del Milan oggi, è arrivato Bonucci. Ora il Milan e i milanisti sognano davvero con tutti i diritti sotto le stelle estive. Con un colpo di mano riempiono la casella più importante, quella relativa a quel bene immateriale che si chiama personalità, mancata in modo imbarazzante nelle ultime tristi stagioni. Barrare, prego. Ci pensano Leonardo Bonucci e Lucas Biglia, gente in grado di prendere in mano lo spogliatoio e per i capelli la squadra in campo. L'ex juventino agghinderà il braccio sinistro con la fascia di capitano e non fa una piega in una squadra talmente nuova e senza passato. Biglia ha pagato una follia in valore assoluto per un giocatore di 31 anni e in scadenza di contratto nel 2018, è esattamente il giocatore che ci voleva in quel centrocampo di facce smorte. Botta di fortuna di Lotito, che ha speculato sulle necessità altrui. Ma tornando a Bonucci, c'è chi dice che alla Juventus non lo volessero più, che Allegri ne abbia domandato la testa e altro ancora. Noi vi buttiamo lì un'ipotesi più fantasiosa. E se fosse la chiave per avere una corsia privilegiata per arrivare a Donnarumma in un futuro non tanto lontano? Carlo Genta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Oh, adesso è arrivato un messaggio a questo proposito. Prima leggo uno dei tanti messaggi che stanno arrivando invece sulla questione migranti e anche sulla dichiarazione, una delle dichiarazioni che ha fatto oggi Di Maio a proposito dell'emergenza immigrazione, dicendo che ormai l'Italia, con tutti che chiudono muri, è diventata una pentola a pressione che rischia di esplodere. Giuseppe scrive: con tutti i migranti che arrivano è meglio, come dice Renzi, aiutiamoli a casa loro. Sapete questa frase che ha creato molte polemiche. 349-238-6666 per i vostri messaggi oppure WhatsApp, e poi c'è la pagina Facebook di Effetto Note, alla quale tra l'altro potete aderire senza indugio. Ma questo ascoltatore scrive: ma quali tifosi del Milan in delirio a proposito di Bonucci? E scrive: ma che cosa dite, oltre che pro governo siete pure milanisti, non c'è veramente limite al peggio. Mi ha regalato un sorriso. Via, ci sentiamo tra poco. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. 60 minuti ricchi di notizie, di fatti, di approfondimenti. Roberta Giordano sempre con voi. Vi ricordo l'ultima puntata della stagione di Effetto Notte, questa. E adesso cominciamo con i vari argomenti, con gli ospiti. Tra poco vi ricordo i fatti principali, se non avete acceso puntualmente alle 21, e poi i vostri messaggi, sempre sulla pagina Facebook di Effetto Notte e al 349-238-6666. Per esempio, sempre sulla questione dei migranti e di questo scontro politico e delle dichiarazioni di oggi di Di Maio, Nino scrive: tutto questo accade perché sotto la voce degli aiuti ci sono interessi economici esorbitanti per tutti coloro che hanno le mani in pasta, poi di questa povera gente, degli italiani, non interessa niente a nessuno. Luigi Di Maio ha detto quello che ogni persona minimamente intelligente vede uscendo di casa, tutto il resto è soltanto interesse di parte. Un messaggio questo invece di Francesco, che scrive: una constatazione ovvia, quella di Di Maio, per la quale almeno in fatto di immigrati Di Maio risulta migliore di altri che non sono in grado neppure di constatare l'ovvio. E poi invece Antonio dice: come è possibile dar credito a un simile sgrammaticato millantatore? Insomma, posizioni come sempre diverse su questo argomento in particolare. Tra poco parleremo invece di quello che è successo purtroppo sul Mar Rosso, ma vi dicevo i titoli principali. Primo riguarda i dati di Banca Italia, che rialza le stime del PIL italiano a un più 1,4% nel 2017, e il ministro Padoan, che ha parlato stasera al TG1, dicendo che anche se il debito è record, come dice Banca Italia, scenderà proprio perché l'economia dell'Italia va meglio del previsto. Attacco sul Mar Rosso, due turiste tedesche uccise, quattro ferite, e poi per quanto riguarda il Medio Oriente, sangue sulla spianata delle moschee, sono stati assassinati due agenti israeliani. I migranti ne sbarcano altri 5.000 oggi sulle coste italiane. L'Italia vuole cambiare la missione Sofia. Intanto c'è stata una polemica sul porto di Civitavecchia, che dovrebbe però essere rientrata perché sembrava che ci dovesse essere un nuovo hotspot, che però forse non si farà. 1.000 evacuati in Gallura, in Sardegna, per quanto riguarda gli incendi che stanno colpendo il sud Italia. Fiamme anche in centro a Sciacca, in Sicilia. In 7 giorni 49 grandi incendi, e pare che a Roma vi sia già un piromane in manette. La violenza senza fine sulle donne, una scia di sangue nelle ultime 24 ore, 4 donne uccise, una in fin di vita per mano sempre degli ex compagni. E poi falsi Modigliani, in mostra a Genova, sospesa l'esposizione, 3 indagati e 21 opere sequestrate. E poi l'avete sentito, Bonucci al Milan, accolto da Re. Insulti bianconeri, anche se l'ascoltatore diceva che siamo milanisti perché diamo una notizia che pare che sia piuttosto oggettiva. Ora ci occupiamo di cose molto serie, purtroppo, del terrore che ritorna sul Mar Rosso. Ne parliamo con Roberta Pellegatta. Ciao Roberta. Buonasera. Allora, è arrivata la notizia nel primo pomeriggio di un attacco su una spiaggia del Mar Rosso. Si parlava prima di donne uccise, due donne uccise e quattro ferite, si parlava della nazionalità ucraina. Invece una delle ultime agenzie diceva che si tratta di donne tedesche. Questo a Hurghada è successo, in un resort, vero? Allora, in realtà, nonostante siano passate ore, le notizie su questo attacco ad Hurghada continuano ad arrivare da fonti ufficiose, dunque non vi sono delle certezze. Resta per adesso lo stesso bilancio, cioè ad essere aggredita a colpi di coltello in questo resort, in questa notissima località del Mar Rosso in Egitto, sono state 6 donne. 2 sarebbero rimaste uccise, le altre 4 ferite, non si sa se gravemente. In precedenza si era detto che le 2 donne morte fossero di origine ucraina, ma ci sono, appunto, come dicevi, fonti di sicurezza che hanno riferito che in realtà erano tedesche. Berlino poco fa, pur non confermando, ha diramato una nota in cui scrive di non poter escludere che ad Hurghada ci siano vittime tedesche, cosa che invece ha fatto Belgrado, smentendo che tra i feriti ci siano cittadini serbi, mentre in precedenza si era parlato di 3 donne serbe e una polacca rimaste ferite. Forse, ma le fonti sono sempre ufficiali, tra i feriti ci sarebbero invece cittadine ceche. Si attendono notizie ufficiali delle autorità egiziane, che sinora hanno solo comunicato di aver arrestato l'attentatore. L'uomo, un 20enne, dicono i testimoni, con jeans e t-shirt, quanto si sa è arrivato sulla spiaggia privata del resort a nuoto, da una vicina spiaggia pubblica, avrebbe urlato: non sono gli egiziani che cerchiamo, e poi si sarebbe scagliato contro le turiste indifese prima di essere fermato. L'attacco per ora non è stato rivendicato, ed è stato compiuto poche ore dopo un altro attentato avvenuto in mattinata alla periferia del Cairo, vicino alle piramidi, dunque un altro luogo simbolo dell'Egitto, un'altra meta dei turisti, e in questo caso il bilancio è stato dei 5 poliziotti uccisi, e per il momento è quanto si sa. Grazie Roberta Pellegata. E tra l'altro continua a essere colpito gravemente anche il turismo del Mar Rosso, no? Proprio perché non è il primo attentato. Grazie Roberta Pellegata. E adesso volevo leggere ancora un altro messaggio prima di passare al prossimo tema. Dice per esempio Giovanna: sull'immigrazione sono molto preoccupata, non vedo tante vie d'uscita. Se gli altri stati non accolgono una parte di immigrati, prevedo tempi duri. E a proposito di attacchi terroristici, oggi ricorderete forse l'anniversario di un fatto terribile, oltre che della presa della Bastiglia, è l'anniversario della strage di Nizza, che è avvenuta esattamente un anno fa, proprio il 14 luglio 2016. E oggi sono state le cerimonie di commemorazione. A Nizza sono arrivati l'attuale presidente francese Emmanuel Macron e i suoi due predecessori, François Hollande, che appunto era presidente proprio in quell'occasione, e Nicolas Sarkozy. Sono arrivati insieme questo pomeriggio a Nizza a bordo dell'aereo presidenziale, proprio per partecipare a questa cerimonia di omaggio alle 86 vittime. Furono 86 vittime e alle centinaia di feriti in quell'attentato che era stato compiuto sulla promenade des Anglais. Attentato, e su questo saluto la nostra Raffaella Calandra. Ciao Raffaella. Ciao Roberta, a te e nostri ascoltatori. Che ha visto non solo un incredibile spargimento di sangue, ma proprio un netto cambio di modalità nello sferrare attacchi jihadisti e anche poi conseguentemente nel gestire da parte di autorità e istituzioni in Europa, ma anche in buona parte penso del mondo, gli eventi di grande portata, no? Sì, è stato, possiamo dire, il giorno in cui il terrorismo si è insinuato nelle nostre piazze e ci ha portato dentro la paura, perché allora per la prima volta è bastato un semplice camioncino ed è bastato come innesco, possiamo dire, la rabbia personale di un uomo qualunque, di un franco tunisino, Mohamed Boulel, per fare una strage. 86 morti, moltissimi erano bambini e centinaia di feriti. Al contrario infatti di Parigi e della notte del Bataclan, che appunto c'era stata l'anno prima, in questo caso nessuna particolare regia dietro l'attentato, ma solo la vita ai margini appunto di quest'uomo, che aveva problemi personali perché si era separato con la moglie, con due figli, ma lavorava, aveva una vita appunto anonima, per portare il terrore tra le persone che stavano guardando i fuochi d'artifici sulla promenade des Anglais, appunto la notte della Bastiglia. E con un camion, quindi non con armi tradizionali, con bombe, esatto, cinture esplosive, esatto, o pistole, no? Esatto, appunto, bastò un semplice camion che aveva noleggiato proprio per compiere la strage, e quella fu anche la ragione per cui ci furono forti contestazioni ad Hollande, nel senso che proprio dopo che la Francia era stata già colpita più volte da attentati, ci si disse com'è possibile che non ci fossero delle misure di sicurezza per impedire ad un camion di entrare così velocemente sulla folla. Nessun posto di blocco era stato in grado di fermarlo e di fare una strage. Dopo quell'attentato, che anche se in dimensioni più piccole fu ripetuto con quelle stesse modalità anche poi ancora a Parigi, a Londra e a Berlino, sempre auto appunto sulla folla, ecco che appunto anche le nostre piazze, anche gli eventi pubblici hanno dovuto fare incontro con il terrorismo in piazza. Sono comparsi i affittoni di cemento nelle strade, sono comparse le barriere, sono comparsi dei piani di organizzazione che anche in Italia, anche per l'organizzazione ad esempio di concerti o di eventi in piazza, ormai devono essere sempre previsti, perché da quel giorno, da quel 14 luglio del 2016, dall'attentato di Nizza, fu allora chiaro che anche una persona qualunque, con una semplice auto, in quel caso con un camioncino, potesse fare strage, mosso semplicemente in quel caso da una sua ragioni personali, di disagio personale, e da quella che poi è il problema più grosso degli attentatori, diciamo militanti della Califfato, il fatto di potersi auto-indottrinare sul web e quindi diventare, diciamo, autonomamente dei militanti del Jihad. Quello fu una strage terribile anche per questo e anche perché appunto furono tantissimi bambini e quegli orsacchiotti, quei passeggini che ricordiamo sul selciato, poi rimasti sul selciato. Noi vedemmo appunto che l'anno scorso quando arrivai a Nizza ero lì e c'erano sotto queste palme insieme poi ai tantissimi messaggi e alle candele dei francesi, degli italiani, delle migliaia di turisti che si trovavano lì, diciamo sono stati un po' un momento in cui è cambiato anche il nostro modo di vivere la spensieratezza. Purtroppo, forse. Decisamente. Grazie Raffaella Calandra. Ciao Roberta. Ciao Raffaella. E adesso parliamo dell'emergenza immigrazione, i vostri messaggi stanno arrivando soprattutto su questo tema anche per la dichiarazione che avete sentito prima di Di Maio. Vogliamo risentirla quando dice che l'Italia è rischia di essere una pentola a pressione? L'Europa chiude a nord con i suoi muri, che sono i muri del regolamento di Dublino, e noi diventiamo una pentola a pressione che ormai sta per esplodere. Questo ha detto Di Maio, i vostri messaggi con Gilles che dice al di là del merito della questione, vabbè, Di Maio fuori corso rimane ridicolamente inadeguato, vabbè, questa è una cosa personale nei confronti di Di Maio. Thomas dice un commento che ha sposato Salvini per Corrado e demagogia becera, mentre Simone dice di certo se le istituzioni stesse raccontano questa trama, e Sergio invece scrive ha ragione Di Maio, mentre Roberto, sempre tra la pagina Facebook di Effetto Notte, il 349-238-6666, dice se come temo sia la campagna elettorale sarà basata sul dibattito sull'immigrazione, questo sarà una zappa sui piedi di una nazione che ha gravissimi problemi interni che non si affrontano, e cita disoccupazione, povertà, dati economici propinati, eccetera, eccetera, livelli di cultura e di educazione tra i più bassi d'Europa. Insomma, parliamo con Matteo Villa, ricercatore dell'ISPI per l'area Europa, cioè dell'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale. Buonasera Villa. Buonasera a voi. Allora, sappiamo che il tema dell'immigrazione è ormai davvero dominante nelle ultime settimane, perché fortissima è la pressione con il bel tempo, no, dei flussi migratori sulle nostre coste. In più, proprio negli ultimi tempi si è, diciamo, intensificata anche la tensione tra Italia e Unione Europea, perché l'Italia si sente a questo punto davvero troppo pressata, messa in grave difficoltà da questo flusso inarrestabile, e quindi continua a bussare alle porte dell'Europa a dire insomma aiutateci non solo con i finanziamenti, ma vediamo se è possibile ridistribuire equamente i migranti, e soprattutto va chiesto l'Italia anche nelle settimane scorse di poter far sbarcare i migranti non solo nei porti italiani ma anche nei porti di altre nazioni europee. Qui l'Europa continua a fare orecchie di mercante e quindi dicevamo anche che rischia di diventare davvero il tema protagonista della campagna elettorale italiana in vista delle politiche del 2018, perché ormai il problema è davvero pressantissimo, no Villa? Sì, assolutamente. Devo dire che manca tanta solidarietà europea, ma in parte, faccio un passo indietro, però è importante, manca anche in parte solidarietà interna in Italia, perché su 8.000 comuni italiani soltanto 2.500 hanno accettato i piani di ricollocamento dei migranti interni, quindi di solidarietà interna tra i comuni e le regioni. Quindi insomma c'è per forza, diciamo, l'Italia diventa una pentola a pressione, ma a volte anche perché ci sono molti rifiuti interni a fare la propria parte. Pensiamo che comunque i migranti che dobbiamo accogliere al momento sono 3 persone su 1.000 se tutti i comuni facciano la propria parte, e poi sì, l'Europa assolutamente non ci aiuta, perché sui ricollocamenti siamo a quota bassissima, 7.000 su 35.000 di quelli che ci avrebbero promesso all'inizio, e anche se li facessimo tutti, in più o meno ricollocherebbero il 10% delle persone che hanno richiesto asilo in Italia. Quindi insomma è un pezzettino del tutto. Se posso chiudere su questo, forse anche le autorità italiane stanno facendo tanta pressione, sapendo che però l'Europa ci chiuderà le porte un po' in faccia, e spero però che questo ci dia dei risultati dal punto di vista dei soldi, perché l'unica cosa che possiamo chiedere in questo momento è che ci può venire data sono i soldi. L'Europa ci dà 750 milioni di euro all'anno, a noi costa l'emergenza 4 miliardi e 200 milioni, l'Europa ci dà un po' di flessibilità, lo sappiamo, quelli 0, che però comunque vanno a incidere sul nostro debito, non è quello che ci salva, ci dovrebbe probabilmente e potrebbe dare di più per far fronte all'emergenza, visto che appunto siamo da soli. Già, ma a proposito delle polemiche interne, oggi c'è stata questo scontro tra il sindaco del Movimento 5 Stelle di Civitavecchia contro l'hotspot e il governo, perché sembrava che lì si dovesse fare questo hotspot permanente, quindi di prima accoglienza. Il sindaco Cozzolino ha detto il porto della città non può essere utilizzato, non è pronto non ha le condizioni per diventare un hotspot per l'accoglienza dei migranti, e da fonti qualificate proprio poco fa è arrivata questa notizia che il porto della città laziale potrà essere utilizzato solo per alleggerire la pressione che grava sui porti siciliani senza che si faccia questo hotspot. Dopodiché invece il segretario regionale della Lega Nord Liguria ha detto: i nostri porti devono tornare a essere fonte di reddito e di occupazione, non è accettabile che vengano regrediti a crocevia di disperati e importatori di nuovi poveri. Gli scali liguri non accetteranno l'arrivo di navi mercantili con immigrati a bordo, il blocco dei nostri porti sarà totale. Quindi inizia anche proprio questo braccio di ferro con amministratori locali. Vogliamo sentire anche cosa ha detto Renzi, fra le altre cose, nei giorni scorsi. Che aiutarli a casa loro è un principio ipocrita se poi tagli i fondi per la cooperazione internazionale come ha fatto la Lega. Se vuoi dire aiutiamoli a casa loro, allora aiutali. Noi avremo per 20 anni il tema dell'immigrazione davanti a noi. 20 anni. Chi vi dice che in 20 giorni sarà risolto vi prende in giro. E tutto questo periodo noi dobbiamo avere insieme una strategia che dica all'Europa: se non ci date una mano a sistemare l'immigrazione, noi smettiamo di pagare i soldi a quei paesi che non prendono i migranti. Molto semplice. Quindi, dicevo, in attesa, no, che si risolva questo braccio di ferro, questo scambio di ricatti, e che davvero, e poi capire anche cosa significa aiutarli a casa loro, perché per il momento non si fa, non si sa come, non ci sono le risorse. Villa, ci dobbiamo lasciare in pochi secondi, ma ci spiega cos'è questa missione Sofia o Sofia alla quale l'Italia punta a correggere il tiro? Ah sì, allora in pochi secondi è difficile, però comunque sì, ci provo. Significa, l'Italia ha chiesto di rivedere le operazioni in realtà di Triton, che sarebbe le operazioni di salvataggio in mare e di contrasto alle misure illegali dei trafficanti. Ha chiesto di non essere l'unico paese in Europa a essere porto sicuro. Di fatto, ripeto, è una richiesta che in questo momento è del tutto inammissibile per gli altri paesi europei, e probabilmente è l'incrimaldello che ci servirà per poi chiedere davvero risorse finanziarie. Queste speriamo arrivino. Grazie Matteo Villa. Grazie. Grazie a voi. Buona continuazione. E ci prendiamo questa pausa di ricreazione. 349-238-6666 per i vostri messaggi o WhatsApp, e poi c'è la pagina Facebook di Effetto Notte. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte siete al posto giusto, nel momento giusto, anche se volete con la giusta conduttrice con voi, Roberta Giordano. Diversi ascoltatori ringrazio, per esempio Licia da Marostica, che dice: cara Roberta, come faremo a sopravvivere tutta l'estate senza di te, il tuo Effetto Notte? Non è che Radio 24 fa effetto estate, adesso vi dico, perché poi c'è Stefano da Genova: ciao Roberta, la notizia di oggi è che ci mancherà Effetto Notte. E così anche altri ascoltatori, adesso non riesco a citarli tutti e a ritrovarli, vi ringrazio. Comunque vi avviso che però, se salvo imprevisti, dovrei ritornare una trasmissione la mattina alle 8 che si chiama Ma cos'è quest'estate? Mi alternerò con alcune colleghe e ci sarò dal 7 agosto alle 8 del mattino, però spero di non dare i numeri a quell'ora, magari ve lo ricordo anche alla fine di questa puntata. Adesso però tra poco dobbiamo cambiare tema, e vi ricordo quali sono, se non avete acceso alle 21 puntualmente, i fatti principali di oggi. In Egitto, attacco sul Mar Rosso, 2 turiste tedesche uccise, 4 ferite, il killer è stato arrestato. Francia, inizia la cerimonia per ricordare le vittime di un anno fa, furono 86. Questa mattina invece le celebrazioni a Parigi per il 14 luglio, c'era anche Trump. Debito pubblico è ancora record, dicono i dati di Banca Italia. Il ministro Padoan rassicura: la crescita economica è superiore al previsto e grazie a questo il debito scenderà. La strage delle donne non si ferma, nel nostro paese ne parleremo tra pochissimo. L'emergenza migranti, ce ne siamo appena occupati, sbarcano altri 5.000 oggi sulle nostre coste. L'Italia vuole cambiare la missione Sofia, missione militare europea al largo della Libia. Incendi, ancora fiamme che devastano l'Italia, in particolare la Sicilia, ma non solo. E poi per lo sport, per il calcio, Bonucci a casa Milan, tifosi in delirio, ha firmato fino al 2022. E vi rendete conto che ogni poco dobbiamo occuparci della mattanza senza fine delle donne nel nostro paese? per mano maschile, 4 femminicidi in poche ore e un tentato femminicidio, una strage che non si ferma, una ogni 3 giorni, una donna uccisa da un compagno, ex compagno, ogni 3 giorni. Le 4 donne uccise nelle ultime 24 ore, una a Montepulciano in provincia di Siena, un operaio di 56 anni ha ucciso a coltellate l'ex moglie romena di 42 anni, alla vigilia dell'udienza per la separazione a Roma un 79enne si è tolto la vita lanciandosi dal 5° piano dopo aver ucciso la moglie di 81 anni, a Bari Donata Di Bello di 48 anni è stata ammazzata dal compagno Marco Basile di 32 anni e poi a Dragoni in provincia di Caserta, ieri Maria Tino di 49 anni è stata freddata per strada dal compagno che lei voleva lasciare, la freddata con 3 colpi di pistola. A Cagliari un 25enne ha massacrato, ha picchiato a sangue la fidanzata dopo una lite, l'ha vista pensando che fosse morta, poi si è gettato una cavalcavia, ma se invertissero la cronologia di questi atti, almeno queste povere donne che non c'entrano niente si salverebbero. Ne parliamo con Anna Boldri, criminologa, psicologa, docente di psicologia sociale all'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli e che da sempre si occupa di questo tremendo fenomeno della violenza sulle donne, dei maltrattamenti. Anna, che cos'è che continua a non funzionare? Perché poi si levano le voci di vari politici, anche se non vedo mai i tweet di grandi twittatori di vari orientamenti politici, che di solito sono sempre molto veloci col dito quando si tratta di altri argomenti. Su questo, insomma, sembra che ci sia tutto sommato una specie di assuefazione generale. O assuefazione o disinteresse, perché questo che dici, che diciamo, è purtroppo sintomatico. La responsabilità di chi uccide è solo di chi uccide, insomma, ma il fatto che ci sia comunque dietro a questa, che non è un'emergenza ma appunto un costante stillicidio, e che non venga percepito dalla politica, dalla società comune, ecco, come un gravissimo problema che riguarda tutti, cittadini e cittadine, ecco, ce la dice grande anche di come forse chi agisce queste forme di violenza, dove l'omicidio, il femminicidio è solo la forma estrema, la conseguenza estrema, ecco, ci fa capire come forse trovano questi autori un terreno fertile, cioè un terreno dove la violenza tutto sommato rientra in una cultura purtroppo ancora misogina. Io dico sempre i stessi argomenti, ma probabilmente vuol dire che questo è un problema che va affrontato in maniera, sicuramente quello che si fa è importante, ma non è sufficiente, quindi in maniera più incisiva, in termini non tanto solo repressivi, perché poi vediamo che molti di questi casi o si costituiscono o si suicidano, quindi non è il deterrente del carcere che poi a questi autori fa la differenza. Sicuramente bisogna intervenire, anche se in molti più, casi anche in Italia. Anna Boldri, ci sono anche delle pene molto leggere, solo ultimamente ho visto forse 30 anni, ma a volte succede che escano anche per attenuanti, buona condotta, sì, dopo pochi anni. Guarda, io ho fatto un calcolo su circa 500 sentenze di condanna di un lasso di tempo di circa 15 anni in Italia, la media è di 12 anni, perché molti beneficiano di quello che è rito abbreviato, no? E quello è previsto dalla legge. Infatti una delle proposte, un articolo inserito nella proposta di legge che purtroppo è ancora ferma al Senato, nella legge a tutela degli orfani speciali, che è passato unanime alla Camera, non dimentichiamoci, esatto, prevede proprio che poi all'interno di quello che è l'omicidio anche del partner, non solo del coniuge come già previsto, venga previsto anche l'ergastolo. Questo, appunto, ripeto, non farà la differenza fra chi vuole uccidere, perché abbiamo visto anche coloro che sono stati condannati, hanno magari scontato un periodo di pena, escono e portano a termine quello che hanno fatto prima, cioè uccidendo la compagna se c'è un tentato omicidio, o addirittura uccidendo un'altra compagna. Però se allora ci rimangono più a lungo, probabilmente poi non avranno neanche le forze e l'energia a un certo punto, esatto, no, di continuare questa violenza. Bisogna lavorare su più livelli, per la gestione del rischio bisogna lavorare a più livelli. Uno è quello del trattamento, dell'intervento. Ora in Italia non è previsto l'intervento coatto, nel senso se non il trattamento sanitario obbligatorio, che comunque non ci sarebbero in questi casi termini, o comunque fare un percorso veramente di revisione di quello che è un comportamento, che poi alla fine, quello della violenza, è una maniera efficace per dimostrare una propria debolezza, perché di fronte a quella che è una donna che si vuole liberare di una persona che magari per anni l'ha maltrattato, non ne riconosce il proprio diritto di pensare come soggetto autonomo, ma è solo una proprietà che nel momento stesso che non la pensa come te, o dice A invece che B, o fa una cosa che a te non ti va bene, usi la violenza come forma anche di rimettere quella persona al suo posto, perché alla fine questo si tratta, perché se tu usi l'omicidio come strumento estremo, ma anche efficace nell'ottica di chi agisce questi omicidi, per decidere fino all'ultimo chi ha il potere su di te e qual è la maniera più efficace di decidere per la vita o la morte di un'altra persona, significa che questi uomini innanzitutto sono dei vigliacchi, perché se di fronte alle difficoltà, anche alle debolezze, perché io non sto dicendo che queste persone hanno vita facile, ma voglio dire, di fronte a un problema che tu hai, anche in saper gestire una donna che ti dice non mi piaci, non va bene quello che pensi, che magari sono anche donne che possono aver fatto i loro errori, ma non significa che con la violenza tu risolvi il problema. Non vi sta bene, vuol dire che questo qua è, basta parlare di femminicidio, ci siamo asseffati tutti quanti. Le donne dicono, gli uomini dicono, perché sono tantissimi uomini che anche sono ovviamente indignati da queste forme continue di violenza, dicono c'è un altro modo, dovete imparare un altro modo, perché altrimenti esiste una legge che dovete essere puniti per quello che avete fatto e quindi va applicata, appunto dicono questo non è un modo di vivere una società civile. Certo. Anna Boldri, vogliamo dire che ci vogliono seriamente prevenzione, formazione, educazione, fondi adeguati ai centri antiviolenza e poi una legislazione veramente chiara ed efficace in questo senso. Ci e dobbiamo che sia lasciare, sì. Unisona, che non ci sia un tribunale che fa una decisione, certo, e un altro che in ci modo sia arbitrario. Un magistrato anche che decidono in maniera troppo a volte non dico tanto solo lassiva, ma troppo discrezionale. Spero purtroppo che ci arriveremo. Continuano a pagare questi prezzi le appunto donne, non ne possiamo più. Grazie Anna Boldri, grazie e viabilità. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Roberta Giordano sempre con voi, le notizie ve le ricordo in pochi secondi. In Egitto questo attacco sul Mar Rosso in un resort, due turiste tedesche uccise, quattro ferite, il killer un ventenne è stato arrestato. In Francia a Nizza c'è stata la cerimonia per ricordare le vittime di un anno fa e questa mattina invece le celebrazioni a Parigi per il 14 luglio anche con Trump. E poi la strage delle donne che non si ferma, ne abbiamo appena parlato, purtroppo l'emergenza migranti, sono sbarcati altri 5.000 sulle nostre coste e poi per gli incendi ne parliamo subito con l'ingegnere Luigi D'Angelo, direttore operativo per il coordinamento delle emergenze della Protezione Civile. Ingegner D'Angelo, buonasera, ben trovato. Buonasera, buonasera a lei e buonasera a tutti. Quindi l'Italia, soprattutto al sud, continua a bruciare. Solo oggi, leggevo, ci sono stati almeno 1200 interventi in tutta Italia e continuano soprattutto gli incendi a colpire la Sicilia, la Puglia, la Calabria, anche altre regioni, però purtroppo a Sciacca in Sicilia c'è stato questo vasto incendio con un'evacuazione cautelativa di alcune abitazioni. In Campania la situazione più critica riguarda soprattutto il Vesuvio, di cui abbiamo parlato anche in questi giorni. E, come se dovesse fare un quadro generale in questo momento, ingegnere D'Angelo. Sì, ecco, anche oggi è stata una giornata molto complicata per quello che riguarda la lotta attiva agli incendi boschivi, dei focolai sono ancora in corso, quindi le squadre stanno operando sul territorio. Noi abbiamo svolto l'azione consueta dal centro operativo aereo unificato di concorso della flotta aerea dello Stato a queste situazioni. Abbiamo avuto oggi 41 richieste di concorso aereo, che vuol dire che sono 41 sono state le situazioni di maggiore vastità, di più difficile intervento da terra, che hanno richiesto l'intervento da parte della flotta aerea dello Stato, che è una flotta che, ricordo, si compone di cala appartenenti al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e di elicotteri sia dei Vigili del Fuoco che dei Carabinieri e di altre strutture della difesa. Quindi attraverso questa flotta siamo intervenuti anche oggi su 41 importanti situazioni, quelle critiche le citava appunto lei, la Sicilia, la Campania, nel Metapontino, anche in Basilicata, ma in Sardegna, anche in Puglia, quindi diciamo tutta l'Italia centro-meridionale, in particolare la fascia tirrenica, ma anche parte della Puglia, e queste anche oggi è stata una giornata particolarmente complessa. D'Angelo, a parte appunto quello che succede concretamente, ma per quanto riguarda invece i piromani, il riuscire a individuare i responsabili, a capire che cosa c'è dietro, sembra che, no, ieri commentavamo proprio con il direttore generale di Legambiente il fatto che nell'arco di un mese, da metà giugno adesso, è bruciato in Italia tutto quello che è bruciato in un intero anno nel 2016. Come mai questa escalation, usiamo questo termine? Guardi, sicuramente quest'anno registriamo delle condizioni di temperatura e di ventilazione molto più severe rispetto allo scorso anno, quindi ci sono delle condizioni che favoriscono la propagazione e l'innesco degli incendi. Alle nostre latitudini è difficile avere degli auto inneschi, le cause possono essere diverse, sicuramente in alcuni casi il dolo o la colpa intervengono come cause degli incendi. Per quello che riguarda poi le attività investigative specifiche, le autorità competenti stanno svolgendo un'azione sul territorio e quindi aspetteremo anche le loro analisi e valutazioni da questo punto di vista. Grazie ingegner Luigi D'Angelo, grazie e buona continuazione. Grazie a lei, buonasera. Grazie, buon lavoro. Grazie. Oh, adesso vedevo ancora molti messaggi sui migranti, dice questo ascoltatore Ferdi da Carpi, aiutare i migranti nei loro paesi dando contributi sostanziosi da parte di tutti i paesi europei, ma sul serio dice non briciole. E poi anche quest'altro ascoltatore che dice... l'unica soluzione è cercare di certo sollecitare la solidarietà dell'Europa, che però a questo punto abbiamo visto insomma c'è da un punto di vista economico, come ci diceva prima il ricercatore dell'ISPI, e tra l'altro neanche con proporzioni che davvero sarebbero adeguate al fenomeno. Vedo una notizia di adesso che riguarda la Turchia. Nuova ondata di purghe in Turchia alla vigilia dell'anniversario del fallito golpe, che sarebbe domani. Oltre 7.000 tra poliziotti, personale dei ministeri e accademici sono stati cacciati dai posti che occupavano con l'accusa di aver agito contro la sicurezza dello Stato o perché membri di un'organizzazione terroristica. Questo lo scrive la BBC online citando un decreto del 5 giugno pubblicato oggi sulla Gazzetta Ufficiale Governativa di questa purga di altre 7.000 persone. Sapete poi quanti arresti ci sono stati? Anche torture poi di tante persone, non si sa neanche che fine abbiano fatto da quel fallito golpe. E proprio in questi giorni Erdogan si lamentava, il presidente turco, del fatto che l'Unione Europea lo sta prendendo in giro, dice lui, da tempo, gli sta facendo perdere tempo perché loro diciamo ambiscono da tempo all'ingresso nell'Unione Europea, e dice però ci stanno facendo solo perdere tempo. Se questi sono i presupposti, immaginate come possa essere l'Unione Europea diciamo ben disposta ad accogliere la Turchia in seno all'Unione. Adesso però dobbiamo occuparci di che tempo farà nei prossimi giorni, questa estate bollente da una parte con trombe d'aria dall'altra. Paolo Corazzoni, Trebi Meteo. Buonasera Roberta, buonasera a tutti. Beh, intanto partiamo dal caldo che si sta attenuando. Abbiamo avuto al centro-sud giornate bollenti, finalmente arriva aria un po' più fresca, un po' più secca, quindi avremo un weekend con temperature nella norma da nord a sud, cosa che non capitava da giorni, e tra l'altro anche con poca umidità. E weekend tra l'altro con sole quasi ovunque protagonista, quindi bel fine settimana. Ti segnalo solo qualche temporale domani nelle zone interne del centro-sud e domenica tra la Calabria e la Sicilia. Però chi fosse diretto verso il mare davvero troverà condizioni meteorologiche splendide, solo con un po' di vento, però ecco, un po' di vento sull'Adriatico e al sud, tra l'altro vento che non gioca a nostro favore per gli incendi che ancora già sono purtroppo presenti. Sì. Purtroppo Paolo Corazzone, diciamo in sintesi che estate sarà? Guarda, secondo me ci aspettano ancora settimane abbastanza calde, già settimana prossima da mercoledì torneremo a sudare, e anche il mese di agosto facile che sarà con temperature sopra la media, quindi capiamo dalle città perché ci sarà da sudare parecchio. Per chi può. Paolo Corazzon di Trevi Meteo, buon tempo a te comunque, sì, buon estate. Ciao. Grazie, caro Paolo, ci sentiamo a settembre. Certo. Ciao Paolo. E adesso ci risentiamo come al solito brevemente alle 22. Vi ricordo però che Effetto Notte, questa è l'ultima puntata, riprende poi dal 4 settembre, però mi dovreste ritrovare, salvo imprevisti, a metà agosto, il 7 agosto alle 8 di mattina, spero di farcela quell'ora, con il programma che si chiama Ma cos'è quest'estate. Ci sarà prima, nella prima settimana, la collega Elisabetta Fiorito, poi nell'ultima Deborah Rosciani, e poi in mezzo le due settimane alle 8 con Ma cos'è quest'estate ci sarò anch'io. Alle 22 ci sentiamo adesso.